2. Ascolta e ripeti. Come mai c'è tanto ritardo nella consegna di questo libro? Forse dovevamo informare il signore al momento dell'ordine. In questo periodo, purtroppo, può succedere di dover aspettare più del previsto. Perché non glielo abbiamo comunicato subito? Veramente, questo è un ritardo insolito. Vede? Arrivano continuamente i libri che ordiniamo. E arrivano nei tempi previsti. Oggi ce ne sono arrivati tantissimi. Capisco. Deve esserci un problema. Signorina, senta, può occuparsi dei clienti? Ne ho visti troppi in fila davanti alla cassa. E mi dispiace farli aspettare ancora. Con questa fila ho paura che preferiranno andarsene. Me ne occupo subito. Arrivederci. Arrivederci e grazie. Signore, facciamo così. Quando arriva il libro, glielo porto io, personalmente. Glielo consegno al suo studio. È lo studio di architettura qui davanti, non è vero? Grazie, lei è molto gentile. E sì, lo studio è qui davanti. Se ha tempo le faccio vedere alcuni dei nostri progetti. Glieli mostro volentieri. Ce ne sono due che hanno appena vinto un premio internazionale. Grazie, grazie. Ma oggi purtroppo non riesco a venire nel suo studio. Ho molti appuntamenti. Ci verrò per consegnarle il libro e per vedere i suoi progetti. Non ne uscirò fino a quando non me li avrà mostrati tutti e due. Va bene, allora la aspetto. Certo. Grazie, lei è molto gentile.